lavorare a tantissime persone. A un certo punto negli anni 2000 ha chiuso quella di Mardabotto, ha chiuso quella di La Madireno, ha chiuso quella di Sasso Marconi. Nel caso di Sasso Marconi e La Madireno sono rimaste delle cartiere, degli edifici totalmente abbandonati. Sono stati totalmente lasciati a sé. Nessuno più ha pensato bene. Penso che sia giusto investire in quelle zone, in quelle aree. Nessuna parte la città metropolitana che l'ha inserito nei programmi territoriali di rigenerazione. E questo ha permesso a Sasso di avere 15 milioni con il Pinqua e appunto alla cartiera di La Madireno di rientrare all'interno del piano urbano integrato, la rete appunto metropolitana per la conoscenza, la grande Bologna, con 9 milioni e 700 mila euro da investire proprio alla Madireno. In questa cartiera che si presenta così oggi, questa è una cartiera che è chiusa da 15 anni. C'è una piccola parte, che qua non è ben visibile, però che è stata acquistata da un imprenditore che ha poi dato in affitto a due realtà alcuni degli edifici. Parto da queste due realtà perché credo che abbiano iniziato a cambiare la vocazione di quella zona. Una è la cooperativa cartiera e l'altra è la Gismeco. La cooperativa cartiera che cosa fa? Prende dei rifiuti, degli scarti di pelli di grandi marchi e li trasforma in accessori, in borse, ridà vita a qualcosa che veniva considerato rifiuto, e lo fa con persone, impiegando persone svantaggiate, in condizioni di svantaggio. Come era partita questa esperienza? Era partita con dei percorsi formativi per richiedenti asilo che oggi sono diventati dei soci della cooperativa, sono diventati artigiani professionisti e che lavorano nella cartiera appunto. Dall'altra parte c'è la Dismenico invece che si occupa di recupero di apparecchiature, di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e li rigenera. Per esempio in questo periodo sta donando anche diverse lavatrici a delle famiglie ucraine sia in Italia che all'estero, tra le tante cose virtuose. Perché ho voluto raccontare queste due realtà? Perché la visione che hanno, l'idea che hanno di imprenditoria dà un po' l'idea anche a tutto quello che poi noi andremo a fare invece dentro alla cartiera. Perché noi nella cartiera vogliamo realizzare un luogo, un polo appunto dell'economia circolare, partendo dall'idea che nessuna persona, nessuna cosa e nessun luogo possono essere considerati degli scarti o dei rifiuti, perché ogni luogo, ogni persona e ogni materia, ogni metà materiale, se posto nelle condizioni di essere valorizzato, può invece creare valore ed essere una risorsa. In questo senso noi nell'area cercheremo appunto di demolire il meno possibile, mantenendo l'architettura industriale. Tutto ciò che verrà demolito verrà riutilizzato in loco. Se vogliamo passare alla prossima, i progettisti che hanno vinto il concorso di architettura che abbiamo organizzato hanno pensato anche non solo di non consumare il suolo, secondo anche le nostre indicazioni, ma sono state aumentate anche le aree verdi. Hanno pensato ad un sistema appunto di creazione di un piccolo bosco urbano che possa andare anche a fare un controllo, ad operare un controllo del microclima, a mitigare anche il rumore, perché lì siamo molto vicini ad una delle fermate della ferrovia. Mobilità sostenibile, siamo fra la ferrovia e la ciclovia del sole, la futura ciclovia del sole, per cui nella cartiera sorgerà appunto una ciclo officina e anche una velostazione. Questa è la parte, il nuovo ingresso, vedete com'è, in che condizioni si trova oggi. Poi ci sarà più avanti una galleria e qui avranno sede delle start-up innovative. Dall'altra parte, proseguendo, ci sarà una zona che è pensata per lo spettacolo, è predisposta già per gli spettacoli, che viene anche arricchita con appunto delle zone verdi. Poi c'è la parte della piazza, c'è il museo della cartiera, ci sono diversi servizi come l'emporio, il bar e il ristorante ed anche una zona di residenzialità ibrida per tutti i turisti, per tutti i cicloturisti anche che arriveranno e anche per fare in modo che ci sia la possibilità di fare corsi di formazione. Per esempio in questo periodo abbiamo già preso contatti con una scuola di dottorato che si occupa anche di cambiamento climatico ed inizieremo a fare con loro dei corsi. Noi non abbiamo voluto stare fermi. Nel 2023, quest'estate, inizieranno i lavori, termineranno nel 2026, ma in tutto questo tempo abbiamo deciso di iniziare a rigenerare. Per cui comincerà un'attività, una bottega, che sarà gestita, dove lavoreranno delle persone con disabilità. Ci sarà anche uno spazio di recupero per mobili che altrimenti finirebbero in discarica quando possono essere invece riutilizzati e rigenerati. Ci sarà avvieremo appunto un punto del Bologna Innovation Square già da ora e poi abbiamo fatto una serie di spettacoli, abbiamo organizzato una serie di spettacoli per fare in modo che si tornasse a vivere questo posto. In un luogo di queste dimensioni, un'attrazione di queste dimensioni, la cartiera dava lavoro a tutti quanti, cioè si è creata la comunità attorno alla cartiera. Quindi in questo specifico, accade con la rigenerazione ovunque, ma in questo specifico caso è rigenerazione non solo urbana, ma anche rigenerazione di comunità, perché vuol dire ridare vita, ridare speranza a comunità che si sono sentite etichettate per troppo tempo come marginali, come aree residenti in aree fragili, cioè, ed è un'etichetta che invece adesso stiamo cercando di toglierci, riscattando le nostre comunità, i nostri territori, facendo in modo che vengano valorizzati, perché se i territori vengono considerati marginali o sono fragili, non è perché sono così per vocazione o naturalmente, è perché questo è frutto di politiche fatte o meglio, non fatte. Nel nostro caso invece, come stiamo facendo nella città metropolitana, noi stiamo cercando di superare le diseguaglianze territoriali facendo in modo che invece le diversità territoriali siano ricchezza e che la ricchezza sia dentro alla diversità è qualcosa che vale sia per le persone che per i luoghi. Io ho concluso, c'erano Bergonzoni, Alessandro Bergonzoni e anche Giorgio Tomaschi con i dipendenti della cartiera, sono due persone molto legate a quei territori e con loro abbiamo voluto dare l'avvio a questa nuova vita. Grazie mille.